Per i miei giorni bastano le tue mani, per le mie ore basta il tuo esserci. Per i miei giorni bastano le tue mani, per le mie ore basta il tuo esserci. Da questa bocca e fino al cielo lascio cadere questa illusione, taciturno, eternamente in fuga, come un viaggio senza meta, come un viaggio senza meta. Per i miei giorni bastano le tue mani, per le mie ore basta il tuo esserci. Sei piccola e triste quando spegni il tuo sorriso e di lontano ti raccolgo perché di te io sono pieno, perché di te io sono pieno. Basta una piccola parola, un sorriso e sono felice che inizi intorno e arrivi pure la sera. E qui ti amo in queste vie, in questi giorni mai uguali che danzano, danzano sopra i miei anni. Questi sussulti che dipingono indizi di vita. Indizi di vita. Scruto l'orizzonte, consapevole che il troppo dura poco e che tu non basti mai, tu non basti mai. Basta una piccola parola, un sorriso e sono felice che inizi il giorno e arrivi pure la sera. E qui ti amo in queste vie, questi giorni mai uguali che danzano, danzano sopra i miei anni, da questi sussulti che dipingono indizi di vita, indizi di vita. Bastano le tue mani.